Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Lunedì, cari amici, una nuova settimana ci aspetta. Ci sono mille cose da fare, da ricordare, lavori da iniziare, altre da portare a termine, gli appuntamenti, le scadenze. Mettiamo poi in conto qualche piccolo contrattempo. Insomma, viene da fermarsi e scendere, aspettando il prossimo giro. Eppure, anche questo lunedì ce la faremo e forse questo lunedì andrà anche un pochino meglio. A una condizione: darci un po' di tempo per pensare e fare una cosa alla volta. Se già alle 11:10 del mattino abbiamo la testa piena, non possiamo pretendere, almeno credo io, di funzionare normalmente, perché troppe cose ci distraggono, ci sviano, ci impediscono di concentrarci. Allora facciamo delle scelte. Ad esempio, scegliete di stare con me e di chiamarmi subito per raccontarmi in diretta i pensieri che avete in testa. 800 24 00 24. Compilate un elenco preciso e dettagliato delle idee e dei pensieri che vi si affacciano più spesso alla mente, come una compilation di brani musicali che sentite tutto il giorno senza sosta e alla quale vi siete talmente abituate che non l'ascoltate più. Se determinati concetti vi infastidiscono, metteteli da parte e stabilite di concentrarvi su di essi in un momento più opportuno. Una volta scritta la lista, provate a scacciare dalla testa tali idee, una per una, con pazienza, nel corso di tutta la giornata. Respingetele con dolcezza, ma con fermezza ogni volta che vi si ripresenteranno. Questo esercizio darà i suoi frutti il giorno in cui sorgeranno in voi idee nuove e inaspettate. Tratto dall'Arte della semplicità, un libro della stessa autrice di cui vi avevo già parlato, che aveva scritto L'arte delle liste, è andata a vivere in Giappone e scrive questi libri in cui sottolinea un principio che io oggi voglio adottare per il mio lunedì: il meno è più. Se volete darvi una mano, chiamatemi e mettetevi le vostre idee sul piatto. Intanto io saluto il professor Perna, che è in linea con noi. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Come sta? Bene, bene, dai. Adotta anche a lei il meno è più, il principio che guiderà il nostro lunedì? Io credo proprio di sì. Devo dire che, ripensando al tema della trasmissione, io spesso dico che bisogna pensare di meno e agire di più, che in un certo senso va verso il concetto del meno pensieri. Ecco, meno pensieri, più efficienza. Credo che il nostro cervello non possa che guadagnarci, perché se sta sempre connesso, alla fine gira vuoto. Lo chiedo a lei, che è psichiatra, il professor Perna è direttore scientifico e primario presso la Casa di Cura San Benedetto Menia d'Albese con Cassano, e professore anche all'Università di Maastricht in Olanda e di Miami. Quindi, professore, lei che di cervello se ne intende, dobbiamo ogni tanto staccarlo. Assolutamente sì. Avere troppi pensieri, pensare troppo in tasca al nostro cervello, non ci permette poi di agire, e la mente calma che lo permette. Io applico un detto orientale, stavo pensando che dopo che hai preso una decisione aspetta 3 giorni e se la confermi poi agiscila. Ma i 3 giorni non sono fatti per rimuginare, sono fatti per lasciare la mente ritrovare quella calma che permette di far emergere quelle sensazioni profonde che ci permettono di capire se quello che dovremmo fare è giusto o sbagliato. Quindi è quella sorta di vocina interiore che noi abbiamo. Però per ascoltarla bisogna avere la mente calma. Allora, qual è l'impegno che oggi, in questo momento, alle 11:13, vi pare più gravoso? Quello che vi sembra più difficile? Chiamateci, magari noi abbiamo la soluzione per voi, o vi alleniamo per trovarla. E quando parlo di allenamento penso subito, ma qua anche lo vedo, al professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, neuropsicologo e presidente di Assomensana. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno a lei, Nicoletta, a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Quindi possiamo allenarci, noi vogliamo allenare il nostro cervello a lavorare bene, quindi a trovare delle soluzioni, ma abbiamo capito, il professor Perna l'ha anticipato, che come fanno gli atleti che si allenano e poi hanno un momento di riposo, il nostro cervello deve essere anche capace di staccarsi, e se non lo fa da solo dovremmo farlo anche noi. Quindi lei ci allenerà e il professor Perna ci darà delle indicazioni per allenarci, allenamenti che verranno resi più, assolutamente più concreti, da un'altra esperta che ho qua in studio con me, che è la dottoressa Marinella Boscolo. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Dottoressa in scienze motorie e counselor professionista a indirizzo somato-relazionale a Milano. Tra l'altro lavora col professor Perna, con cui sta organizzando proprio dei corsi di mindfulness. Sì, e c'è anche un servizio che è stato aperto da poco all'interno della clinica proprio per aiutare eventuali pazienti e anche alla prevenzione. Allora, noi ci siamo tutti. Il professor Iannoccari ci farà allenare, ci aiuterà a sviluppare alcune competenze. Il professor Perna ci aggiornerà sugli studi delle neuroscienze, quelli più recenti, e la dottoressa Boscolo invece ci aiuterà a staccare la spina. Ecco, ci sono dei momenti nella giornata in cui abbiamo bisogno proprio di impegnarci, quindi di rendere al massimo, altri momenti in cui di staccare la spina. Noi oggi impareremo a farlo. E iniziamo proprio con il professor Iannoccari. Atleti, ho letto un articolo molto bello sull'allenamento degli atleti e il nostro cervello. Sì, esce in coincidenza anche col termine delle Olimpiadi di Londra. Infatti proprio in questo periodo Assomensana si è concentrata su quello che è la correlazione tra gli sport e le funzioni cognitive, e abbiamo visto che diversi tipi di sport allenano e stimolano e richiedono anche l'impegno di funzioni diverse. Ad esempio gli sport all'aperto richiedono un'ottima attenzione visiva e anche un'attenzione divisa, oltre che alla capacità, diciamo, di mettere in atto gli schemi di gioco, mentre ad esempio gli sport, quelli a due, richiedono altre funzioni che sono per esempio l'attenzione, la concentrazione, ma anche il pensiero laterale. È necessario che per battere l'avversario si improvvisi un gioco imprevedibile. Noi qui a Radio 24 diamo delle spiegazioni e anche dei suggerimenti concreti per allenare tre funzioni cognitive. Io proporrei oggi di allenare la funzione del linguaggio, sì, della pianificazione, sì, e anche la funzione della creatività. Andiamo ad utilizzare queste diverse funzioni. Perché? Perché sono posizionate in luoghi diversi del nostro cervello, e quindi andiamo a fare un allenamento su entrambi gli emisferi cerebrali. Quindi, anche per chi volesse tenersi in forma senza muovere un dito, professore Iannoccari gli esercizi li suggerirà lei. Certo. Iniziando da esercizi del linguaggio. Banana. Quale frutta ciuffo, colombo, piccione, qual è? Piccione. Triangolo, quadrato, cosa quadrato. Può essere? Isoscele, fiato, corde, lobo, strumento, a Bruco, Taylor, imbruti, furti, si sposa prima. Eucalipton, menta, cosa mangia il koala? Pistillo, corolla, pistillo. Cosa forma i petali di un fiore? La fuoco, acqua, lo scorso fuoco. Di Natale o Capodanno, cosa viene prima? Natale. Sì! L'avete sentito, è Paolo Bonolis che legge domande a raffica nel programma Avanti un altro, in onda su Canale 5. È veloce da morire. Come mai? Richiede una capacità di concentrazione da parte dell'avversario, che è veramente del concorrente, che è davvero straordinaria, perché deve riprendere in millesimi di secondi la risposta giusta e ricordare poi qual è la sequenza. Quindi noi non vogliamo diventare così bravi, ma sicuramente vogliamo allenare la nostra competenza, e quindi proviamo a usare le parole. Il primo esercizio riguarda proprio il linguaggio. Quale esercizio propone, dottor Iannoccari? Allora, vi propongo un esercizio tratto da Mentatron, la mente in gioco, il primo campionato nazionale svolto in tutta Italia, targato a Assomensana. La proposta che vi faccio, sì, per esercitare il nostro linguaggio è quella di recitare velocemente l'alfabeto italiano, cioè quello composto da 21 lettere, sì, all'incontrario. Anzi, no, se... io non ce la fa. Neanche io. Ma magari c'è qualcuno che ci ascolta e che ce la fa. 800 24 00 24. Professor Perna, ci sono fiorfiori di studio che ci confermano che misurarci in questi piccoli giochi, dalle parole crociate ai giochi che propone il professor Iannoccari qui a Essere Benessere, aiuti proprio a tenere la mente giovane. Questo è assolutamente vero. Se noi ci pensiamo bene, mentre per l'attività fisica, quando io vado in palestra, è dato per scontato due principi fondamentali. Uno, che devi allenarti. Due, che devi riposare. Quindi ci sono entrambe le cose. Noi sappiamo, per esempio, che se noi facciamo i pesi, anch'io vado in palestra, se uno non si prende il tempo di riposo tra una sessione e l'altra, non permette al corpo di svilupparsi. Viceversa, se io prendo solo riposo e non faccio esercizio, ovviamente non permette di avere lo stimolo. Quindi ci vuole un mix giusto di allenamento, esercizio e calma e spazio. Questa è la mossa vincente per permettere di svilupparci e crescere. Allora, intanto 800 24 00 24, ripetete velocemente l'alfabeto italiano all'incontrario. E il professore Iannocari misurerà il tempo e soprattutto la correttezza. Se volete provarci, intanto io vado a salutare Andrea Vitali. Ciao Andrea. Buongiorno, ciao, tutto bene? Scrittore, io tutte le volte che vado nelle librerie, sai che mi pavoneggio perché leggo, no? Scritto, ventesima edizione, scrittore delle mille copie, dico io lo conosco. Lo conosco, che soddisfazione. E come scrittore lui con le parole ha una certa dimestichezza. Senti Andrea, ma tu cerchi, come si fanno a trovare sempre le parole giuste? Per uno scrittore penso che sia un bell'impegno. Devo dire assolutamente. C'è uno strumento essenziale, insostituibile, che è il libro, sono i libri. Leggere fa bene perché arricchisce il nostro vocabolario. Questa è una banalità scontata, ma pur sempre valida. E poi ovviamente l'esercitare la memoria nel ricordo, insomma, nelle cose. È una cosa che io sto facendo proprio attualmente, nella cosa che sto scrivendo, che riguarda un po' la mia, diciamo, certi ricordi di infanzia, per cui mi trovo costretto a forzare la memoria per recuperare questi ricordi che poi diventano parole scritte. Quindi analogamente all'esercizio proposto poco fa, anche questo di ricordare le cose, diciamo, del nostro passato è utile per mantenere la memoria sempre attiva. Senti, tu ai tuoi pazienti che arrivano in ambulatorio suggerisci la lettura, e poi quale altro trucchetto o raccomandazione fai per tenere il cervello allenato? Quello di chiacchierare con chiunque, anche di spettegolare, perché ricordiamoci che anche il pettegolezzo è una fonte di ricordi. Poi il pettegolezzo ha questa particolarità, laddove non riesci a ricordare devi inventare, e qui quindi interviene la fantasia di cui tutti noi disponiamo, che è un ulteriore esercizio per recuperare parole e modificare eventualmente certi ricordi. Senti Andrea, ma tu ce la faresti a dire l'alfabeto all'incontrario? No, attualmente anch'io. Attualmente mi metti un po' in... No, ma bene, sai perché? Perché io non ce la farei. Allora, il fatto che non ce la faccia neanche tu, quindi, ma il comune è mezzo gaudio. Assolutamente. Bravo Andrea, meno male. Grazie. Sono solidale con te. Assolutamente. Un abbraccio ad Andrea Vitali, grazie per essere grazie stato con noi. Grazie a voi, ci mancherebbe. Buona giornata. Altrettanto, a presto. Allora, intanto 800 24 00 24, se volete cimentarvi nell'esercizio suggerito dal professor Iannocari, che nel corso della trasmissione ha altri esercizi da suggerirci, perché noi cercheremo di sviluppare la competenza del linguaggio, della pianificazione, ma anche della creatività. Intanto voi raccontatemi le cose che vi frullano in questo momento in testa, siete impegnati magari a rimuginare. 800 24 00 24, perché nel nostro allenamento naturalmente entra anche la dottoressa Boscolo, perché ogni tanto, proprio per pensare bene, abbiamo bisogno anche di non pensare. E qui mi collego al fatto che per non pensare serve molto, ecco, aumentare l'allenamento, perché è un allenamento il non pensare. Prendo spunto dal professor Giuseppe Alfredo Iannocari, e quindi anche qui bisogna metterlo nel contesto della quotidianità, se no è facile dire calmare la mente, ma poi non accade. Allora, cosa possiamo fare? Siccome noi viviamo in Occidente e viviamo in un momento abbastanza frenetico, è importante mettere nell'arco della giornata dei momenti di stacco. Per ognuno può essere diverso. Io adesso, diciamo, do degli esercizi semplici che possono fare chiunque. Sì. Ad esempio, quando mi alzo la mattina, invece che alzarmi in maniera su, suona la sveglia, mi butto giù dal letto, quando scendo, prima di scendere, un bel respiro. Sì. Okay? e non vado subito sulla testa, perché tendenzialmente cosa si fa? Si apre gli occhi e si pensa subito a cosa devo fare stamattina. Devo alzarmi, la sveglio all'ora, sono in ritardo, stamattina è una giornata pesantissima, oddio cosa mi metto. Ecco, qui già vediamo che siamo già sul mondo mentale e non ascoltiamo assolutamente né la qualità del respiro né tantomeno il nostro corpo. Quindi, ad esempio, questo, il fatto di dire ok, prima di alzarmi, un attimo. Metto i piedi per terra. Anche mi ascolto, sento, respiro, come sto? Guardo la luce, non so se la finestra è socchiusa, guardo. Mi prendo proprio dei momenti in cui, prima di entrare nel mondo dell'efficienza e dell'efficacia, mi ascolto. Quello che io reputo oggi importante per avere un'anticamera della meditazione, della mindfulness, è il sentirsi a livello di corporeo e la respirazione. Professor Perna, su questo bisogna lavorare molto. Sembra strano che abbiamo perso la capacità di sentire il nostro corpo, quindi siamo già con una gamba di meno, perché ci manca un piano di consapevolezza. Questo è proprio vero. Mentre parlavi stavo proprio scrutando la banca dati mondiale per vedere un po' gli ultimi studi. C'erano molto carino che mostrava come proprio la meditazione sia capace di migliorare la capacità di percepire il nostro corpo. Cioè, le sensazioni fisiche che noi abbiamo possono portarci in allarme o meno. Se io sento un dolore mi spavento e quindi in qualche maniera mi sale ansia, mi preoccupo, vado a fare esami. Ecco, il giudizio sul significato della sensazione fisica migliora se noi siamo capaci di applicare la meditazione al nostro corpo. Quindi è qualcosa che ci aiuta a decidere in maniera corretta. È vero anche che il mondo moderno è un mondo caotico. Se uno si ferma un attimo e in città o dove si trova nota un sacco di rumori, le automobili, e questo e quell'altro, e ovviamente questo è una sorta di onda di disturbo che abbiamo di base. L'altra cosa è forse l'insegnamento, che a mio avviso personale non è così ottimale, quella che bisogna pensare a tutti i costi sempre e dappertutto. Questo non è vero, perché il nostro cervello pensa anche quando è in silenzio, ma è un pensiero più profondo, una sorta di voce interiore che di solito ci dà i suggerimenti migliori. 800 24 00 24. Ho picchiato la testa, lasciatemi stare, non lo vedete, non sono più normale. Ho picchiato la testa, lasciatemi dormire, avvertitemi quando è pronto da mangiare. Ma se lei chiamerà, mandatemela di qua. Cari, molti messaggi al 349-238-6666. Ascoltatori mi chiedono: ma non è sufficiente leggere, fare le parole crociate per tenere la mente giovane? O c'è bisogno sempre di qualcosa di più? Questo è un ottimo punto di partenza. Io utilizzerei queste attività che sono fondamentali per migliorare ancora la nostra efficienza. Ad esempio, quando si legge, noi sappiamo che la lettura è un'abilità quasi passiva, nel senso che noi ci immergiamo nella lettura, viviamo altri mondi che fanno benissimo. Se vogliamo portarla a frutto e allenare anche la memoria, ad esempio il linguaggio, possiamo raccontare che cosa abbiamo letto. Prima raccontandolo noi stessi, poi magari raccontandolo anche ad altri, come diceva Andrea Vitali, no? La sì. Lettura, ecco, la chiacchierata, eccetera. Anche il pettegolezzo. Il pettegolezzo, sì, che hanno delle valenze psicologiche importanti. Mettiamoci dentro anche dei contenuti, ad esempio raccontare a degli amici che cosa si è letto. Sai, ho letto il libro di Andrea Vitali che racconta di un personaggio che si trovava in quel posto, che era imparentato con... In questo modo che cosa facciamo? Utilizziamo la lettura in modo attivo, per cui noi dobbiamo ricostruire dei personaggi, dei percorsi, degli ambienti che abbiamo appreso e che devono poi essere compresi anche dall'interlocutore. In questo modo abbiamo utilizzato degli strumenti in modo assolutamente efficace per la nostra memoria, il nostro linguaggio, il nostro ragionamento. Francesco ci chiama da Bologna all'800 24 00 24. Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, a me è capitato da piccolo di fare una recitazione all'improvviso dell'alfabeto al contrario. E solo dopo mi sono accorto che era l'alfabeto al contrario, mi è venuta semplicemente spontanea ed è una cosa che mi è rimasta Per sempre, l'ho sempre diciamo recitato serenamente, ricordandomelo, senza averlo mai imparato a memoria. Ecco, ma questa ripetizione, professor Perna, funziona un po' come un mantra per il nostro cervello, vero? Sicuramente sì, perché ricordiamoci che il mantra orientale, io lo dico, voi sapete che ho la mamma giapponese, quindi come dire, posso parlare riguardo questo aspetto, non è unicamente limitato a ciò che è il mantra orientale. Noi abbiamo tante serie di mantra occidentali, no? Sono ripetizioni, per esempio, nel fare giardinaggio. Quanta gente gli piace fare giardinaggio, le loro piantine, quindi entrano in quello stato, come dire, profondo, interiore, perché stanno ripetendo un gesto. Così vale anche ripetere alcune parole, quindi ognuno di noi ha quella modalità ripetitiva che permette alla mente di non essere invasa dal caos dei pensieri e permette di avere una sorta di metronomo interno che permette alla mente di raggiungere la calma. Francesco, lei quindi potrebbe ripeterci l'alfabeto al contrario? Sì, se volete, sì. Ma sì, dai, prima dei mercati, Francesco con l'alfabeto al contrario. Sì, 4 secondi, dice il professor Iannocchi. Un soffio. Adesso me le scrive, provo a leggerle anche al contrario. Grazie Francesco che ci ha chiamato da Bologna. Tante cose in testa, noi vogliamo comunque oggi approfittare di questa oretta di essere benessere per occuparci della nostra mente e del nostro cervello. Lo facciamo con i nostri esperti, col professor Perna, che come psichiatra ci spiega perché è importante allenare ma anche staccare la spina, che cosa ha bisogno il nostro cervello per funzionare bene, per mantenersi sano a lungo. Professor Perna, tutte le volte che si parla di funzioni cognitive mi arrivano mail, mi stanno arrivando messaggi di persone che mi chiedono come si fa ad invecchiare bene con la mente, ma soprattutto come si fa a individuare eventuali segnali di un cervello affaticato o che si sta ammalando. Le malattie neurodegenerative fanno paura e al momento ci sono delle indicazioni che possiamo seguire? Sul primo aspetto, allenare la mente è sicuramente l'elemento cruciale, quindi la curiosità, quindi l'affrontare situazioni nuove, quindi non rimanere sempre nelle stesse cose, permette al cervello di svilupparsi e di mantenere la propria forza, questo alternandolo con delle pratiche in cui la mente sia un attimino rilassata e calma, quindi sempre allenarsi e riposarsi, come dire, in maniera continuativa. Quali sono i segnali invece che potrebbero farci capire o spingerci a occuparci, a parlare con il nostro medico? Perdite della memoria, difficoltà di linguaggio. Sicuramente queste, bisogna stare molto attenti però, perché non bisogna confondere una leggera riduzione della memoria o alcuni, come dire, colpi persi come un segnale del crollo, perché molto spesso le persone vengono terrorizzate da piccoli segnali come se fossero indicatori di chissà che cosa. In realtà il nostro cervello col tempo comunque diventa un po' più rigido, tende comunque leggermente a perdere alcune funzioni, questo non vuol dire che debba andare incontro a malattie gravi o alla perdita addirittura del proprio sé, come capita in diverse condizioni tipo l'Alzheimer, eccetera. Quindi non fatevi prendere dal panico se avete delle piccole dimenticanze. Nel caso in cui le dimenticanze siano molto frequenti, ci sia un cambio anche della personalità, la persona non è più se stessa in qualche maniera, piuttosto che abbia difficoltà di attenzione e concentrazione particolarmente rilevanti, allora perlomeno parlate al vostro medico di base. E solo se lui chiede un altro consulto, andate poi a farlo. Non fate testa vostra terrorizzati, perché è normale che qualche colpo lo si perda, fa parte della vita. Però noi abbiamo il professor Iannocchi e di colpi ne perdiamo sempre meno se seguiamo gli esercizi che propone Assoma Insana e alcuni degli esercizi che il professor Iannocchi riprende da Mentathlon, questa gara per cervelli. Professor Iannocchi, allora, per non perdere colpi abbiamo provato a dire l'alfabeto al contrario. Io già quello non sono riuscita. Un altro esercizio? Ad esempio possiamo chiedere ai radioascoltatori di chiamare in diretta, gli proponiamo una parola e loro ci dovranno dire le lettere che compongono la parola al contrario. Ad esempio radio? Radio, devono dire O, I, D, A-R. Ah, molto semplice molto questo. Semplice. Ed è un esercizio che noi possiamo fare anche nel nostro quotidiano. Assolutamente. In questo modo noi che cosa facciamo? Rinforziamo la concentrazione e anche le capacità di pianificazione, oltre che un buon piglio, perché il nostro dobbiamo focalizzare la parola che noi dobbiamo ripetere al contrario, per cui riusciamo a mantenere. Allora, per evitare che voi, magari come mi scrivono molti ascoltatori, l'alfabeto uno se lo scrive e poi lo legge al professor Iannoccari, allora chiamateci e sottoponetevi a un piccolo test da parte del professor Iannoccari per così testare un po' le vostre funzioni cognitive. 800 24 00 24, noi andiamo ad Andrea che ci chiama da Modena. Buongiorno Andrea, benvenuto. Buongiorno. Pronto? Ci dica Andrea. Allora, io ho chiamato perché volevo parlarvi della mia esperienza che ho avuto e ho tuttora con la meditazione trascendentale, con la quale sono riuscito ad avere quei distacchi che parlava il vostro professore, in cui la mente pensa ma non pensa. E lei ha trovato grande giovamento? È un grandissimo giovamento. Come ha fatto ad avvicinarsi a questa pratica? Sentendo per radio alcuni vostri, perché io come se avessi imparato. Ah, veramente? Ho imparato un po' con voi. Sì. Ah, sono contenta. Allora, sì, insieme a Andrea, che è diventato un po' un esperto sollecitato anche dagli ospiti che sono intervenuti, che ci aiutano ogni giorno a prenderci cura di noi, del nostro benessere. Dottoressa Boscolo, ci regala un altro esercizio per incamminarci sulla strada di Andrea? Allora, io diciamo mi riporto sempre non tanto a parlare delle varie tecniche di meditazione, ma di esercizi da poter inserire nella propria quotidianità per aumentare la qualità della presenza e quindi della consapevolezza. Abbiamo parlato prima del fatto come svegliarsi, chiaramente questo può anche essere intercalato in altri momenti della giornata, la consapevolezza, ad esempio il mangiare, a prendere dei momenti in cui non vado alla pausa pranzo con i miei colleghi o in luoghi dove c'è confusione, ma mi prendo dei momenti in cui mangio da solo e quando mangio osservo il colore, ad esempio, dei cibi. E prima di mangiare, quindi mi metto quasi in uno stato, uso la parola contemplativa, no? Poi quando metto ad esempio in bocca, non so, un acino d'uva, assaporo bene, sento la qualità del cibo. Oppure un'altra modalità può essere il fatto che, ad esempio, se parliamo di atleti o comunque di persone che si vogliono mantenere in forma, può essere un ottimo lavoro per aumentare la qualità della presenza il fatto di utilizzare ad esempio la corsa contemplando il paesaggio, cioè osservando mentre corro i colori delle piante, le forme. Oppure semplicemente anche sentire il mio piede, la rullata del piede sul terreno, il terreno come impatto. Quindi, dottoressa Boscolo, come ci raccomandava il professor Perna, noi dobbiamo fare una cosa e la vocina nostra interiore ci deve dire attenta a questo, fai così. E seguiamo una direzione. Lei faceva riferimento al gusto, a masticare bene, no? A assaporare l'acino d'uva, oppure mentre corriamo, darci una sorta di compito che ci porta la testa altrove dai nostri pensieri, ma nello stesso tempo questi diventano stimoli nutrienti. Pierpaolo, dalla provincia di Pavia, buongiorno. Pierpaolo? Buongiorno, mi sentite? Sì, io la sento molto bene. Anch'io. Buongiorno. Siamo pronti. Che cosa facciamo, Pierpaolo, io e lei? Ah, non lo so, avete parlato di un test per la... Voilà, magnifico, Pierpaolo, pronto. Il professor Iannoccari è pronto per farle un test sulle sue funzioni cognitive. Ai ai ai, sì. Io la promuovo, perché Pierpaolo, lei è già promosso. Comunque. Lei è troppo buona. Professor Iannoccari, Pierpaolo è tutto suo. Vai con Pierpaolo. Pierpaolo, sì. La parola che lei deve ripetere al contrario, sillabandole singole lettere, è benessere. Via. Benessere. E R E N E B. Mancano due S. Riprovi Pierpaolo. Di nuovo. Pierpaolo, io voglio dargli un libro, ma glielo do lo stesso perché io sto facendo. Poi mancano delle S, ricordi la S che io non ho. Allora riproviamo, perché così è un piccolo allenamento che possiamo fare anche noi. Certo. Pierpaolo, riparta. E R S-S-N-E-B. Ne manca una. Allora, ci stiamo rendendo conto. Pierpaolo, grazie. Io la farò contattare dalla redazione per darle un libro che ci tiene, come diceva Andrea Vitali, ci tiene in grande allenamento. Grazie per aver partecipato. Grazie a voi. Buona giornata. Ma questo che cosa ci dice? Che bastano degli esercizi molto semplici. Ogni tanto ci prendiamo una parola, radio, benessere, cane, e proviamo a ripeterla al contrario. In questo modo, se possiamo farlo anche quando siamo in macchina, quando andiamo a correre, è un modo per portare via la testa, ma nello stesso tempo quale funzione alleniamo, professor Iannoccari? In questo caso sicuramente la concentrazione e la pianificazione. Sembra facile, ma poi quando ci mettiamo lì e proviamo a fare un esercizio assolutamente così leggero, ripetere ad esempio le lettere che compongono la parola, al contrario ci rendiamo conto che si fa fatica, e quando noi facciamo fatica ci arrovelliamo, il nostro cervello un po' ci guadagna. Professor Iannoccari. Sì, quando noi comprendiamo come fare un esercizio pensiamo che sia facile solo perché l'abbiamo compreso, sappiamo di che cosa stiamo parlando. Farlo effettivamente invece diventa più impegnativo, è un po' come quando si alza un peso. Se io vedo un peso per terra e lo devo alzare, lo devo sollevare, dico beh sì, ce la faccio. Prenderlo e tirarlo su è una faccenda diversa. Fare gli esercizi per la mente ha lo stesso meccanismo, quindi lo scopo è quello di allenare la mente quando si prova un po' di fatica. Quando noi proviamo un po' di fatica nel far qualcosa è perché il nostro cervello si sta in qualche modo potenziando. E nello stesso tempo stacchiamo un po' la spina, professor Perna. Cioè prendiamo due piccioni con una fava, no? Sì, assolutamente sì. C'era un bellissimo studio, per citare proprio insomma qualcosa che viene dimostrato, che mostra come la meditazione, la mindfulness meglio, sia capace di ridurre la rigidità cognitiva. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi quando prendiamo una decisione siamo molto condizionati dalle nostre esperienze passate. Siamo così condizionati che talvolta siamo ciechi alle alternative, alle cose possibili nuove. Allora sembra che praticare la calma mentale aiuti ad ampliare la possibilità di fare delle scelte che siano ottimali, quindi questo è molto importante, ci rende meno rigidi, quindi lasciare il vuoto mentale, la calma mentale ci aiuta a essere meno rigidi. Adesso, come anticipato, andiamo a lavorare sulla nostra creatività. Il professor Iannoccari ci ha proposto due esercizi, due sfide, come si chiamano, due test da Mentathlon. Noi ve li facciamo sentire, potete scegliere una delle due, però sceglietele, 800240024 e misuratevi. Riferire almeno 5 motivi per i quali una donna vestita da sposa scende da un tram. Riferire almeno 5 conseguenze che si verificherebbero se le autovetture andassero a sapone. Eccoci qua in linea con noi. Io ho chiamato un amico che è molto creativo e in linea con noi abbiamo Eugenio Finardi. Ciao Eugenio. Ciao. Io ho pensato che tu che sei cresciuto immerso nella musica. La musica, come ci ha spiegato tante volte il professor Perna, è veramente un integratore eccezionale per il cervello. Tu hai una mamma cantante lirica. Sì, io sono nato in uno strumento musicale. Tu sei nato, quindi... è vero, me l'avevi detto una volta, è vero, tu sei nato in uno strumento musicale. Ho pensato, vorrei parlare con lui di musica, di quanto sia importante suonare la musica, ascoltare la musica per il nostro cervello, ma già che c'ero, ho pensato, perché non chiedere a Eugenio Finardi una risposta a uno dei nostri test della donna vestita da sposa o delle macchine che vanno a sapone? Mm-hmm. Beh, io scelgo la donna che è vestita da sposa. 5 buoni motivi per i quali può scendere da un tram? È figlia di un tranviere, per cui viene accompagnata da un glorioso, diciamo, anziano tranviere che la accompagna con il mezzo che la accompagna, insomma, che le ha dato in fondo da vivere per tutta la vita al suo matrimonio. L'altra è invece che si è scappata dal retro della chiesa per non sposarsi o del municipio e si è salita sul primo mezzo a disposizione, in quel caso un bel... A Milano i tram si chiamano, come si chiamano quelli, sirietto, sale su un bel sirietto e se ne va, E la terza è che ci sia una sfilata di moda ambientata, come spesso succede a Milano, in luoghi strani, per cui in un deposito tranviario, per cui alla fine la sposa scende da, siccome le sfilate di moda finiscono di solito con l'abito da sposa, finisce con un tram tutto bianco che fa scendere queste spose. La dunque, quarta? Ne ho fatte tre. Ma bravo, però il professore la quarta è che lei stessa sia una tranviera, che quindi possa abbia scelto e si sposi con un tranviere, quindi abbiano scelto il tema del tram in tutte queste cose. E la quarta è che per via dell'area C è bloccato il centro, per cui nemmeno le macchine di lusso, cioè un'area C veramente Eugenio. Drastica, per cui anche le spose sono costrette ad andare in tram. La cosa più bella è che lo sarebbero anche i consiglieri comunali, gli assessori eccetera, compagnia cantando. Questo è eccezionale, la performance di Eugenio Finardi è eccezionale, direi, perché ha centrato tutti e tre gli obiettivi della creatività, che sono la fluidità, cioè la capacità di passare e di produrre più alternative di risposta, l'originalità, perché sono tutte e cinque originali, e anche la flessibilità, perché ha proposto cinque situazioni diverse l'una dall'altra. Per cui questa è la creatività. Quanto di questa creatività ti viene dalla musica? Vogliamo inserire insieme alla mindfulness, agli esercizi che abbiamo dato oggi per allenare le funzioni cognitive, l'importanza della musica, Eugenio, e sei tu in pochi minuti a raccomandare anche, sarebbe bello che nelle scuole si facesse più musica, ai genitori di far ascoltare. Farla che si ascoltasse più musica. Ecco. Che si insegnasse l'ascolto, perché la musica è un linguaggio. Gli esseri umani, credo che il professore lo confermerà, pensano parole, noi tutti pensiamo parole, anche un pittore se pensa verde cerca un tubetto con scritto la parola verde, solo i musicisti e i matematici hanno un pensiero altro. Quindi possedere il linguaggio della matematica o il linguaggio della musica, che poi sono molto molto simili, dà semplicemente un linguaggio mentale alternativo che permette appunto di mantenere vivo la parte destra, la parte creativa del cervello in maniera molto, molto più forte che non semplicemente la capacità verbale, no? Certo. E quindi trovo che la musica andrebbe, però il grande errore è mettere in mano i ragazzi ai flautini senza spiegargliene il senso. Sarebbe un po' come dare dei ragazzi una matita senza fargli l'esperienza di leggere. Eugenio, una puntata dedicata alla musica qua con Eugenio Finardi, spero prestissimo. Presto. Io ti ringrazio per essere stato con noi. Saluti i miei ospiti, il professor Perna, la dottoressa Boscolo, il professor Iannoccari, voi che avete partecipato.